fratello mio. No, perché io ho lo squelcia manettone e il volume mi parla, te lo faccio sentire, vai, parla. Vuol dire che non supero lo squelcio, qua c'è un problema. Ma cosa? Non te lo posso far sentire perché è innesca. Ah, ti ho dovuto abbassare, ti puoi immaginare. Sì. Io, eccoci qua. Siamo una grande famiglia, arrivati fin qua. Allora, adesso gli do, visto che è venerdì, gli do un pochino di burro da 50 watts. Anch'io sono d'obbligo. Comunque, aspetta un attimino, tornando al discorso del poc'anzi, questa leaderautostile.com Limassol, non so cos'è, praticamente avevo comprato uno, non ho speso tanto, però queste cose mi danno fastidio. Ho comprato un divanetto per il cane, compra subito, 10 euro e me ne hanno fottute. Quelle cose lì poi quando sono 10, 100 vanno in medicina, lo sai. Oppure gli scendono a Parigi, non lo so, vediamo, dai. Devo telefonare, vedere un pochino come cosa si può fare. È un incidente, una cosa. Beh, ti arrivo. No. Sono derubati così, vanno sempre male, quindi sì, hai ragione, o un incidente oppure un apparizio. Oh, un attimino che mi chiamo da altre parti. Già ho sentito. Ma bisese? E certo che sì, che ci sono. Aspetta, sto scrivendo una cosa. Cazzo, se non avevo la stampante, mamma mia. No. Cioè la stampante, cacchio si chiama, è la tastiera. Vai a Lourdes, fate un bagno nell'acqua santa. Sto bene così. No, il problema è che quando utilizzo i watt della radio si blocca qualcosa. Poi io sempre esce a vedermi, vediamo, te lo faccio sentire se c'è. Sì. Cinesi. No. Maledetti cinesi schifosi. Ma mi entro nel PC, mi entro, ma perché? Perché sono cinesi, io non li posso vedere. Miserabili. Toccherà portare nuovamente il PC a controllo, ma non lo so. Ma secondo me invece ti devi mettere una radio in macchina e vedere da dove arriva quel rumore. Entrare e sbattere di qualcosa a terra. E cosa mi metto la radio se me lo fa nel PC? Devi guardare se te lo fanno un portatile. Diciamo che il portatile ce l'ho anche ma non accende. No, che non ce l'hai. Cazzo, mi si è svampito anche lui. Tino, caro Tino, guarda, io non sto uscendo da una giornata infernale. Sono salito ad Apirisi a cercare un tappo di poppa tra Sassari e Pordotores, non si trova un tappo a espansione di quelli che dico io, col T invece con la levetta, no, col T, e non si trova, tutto da ordinare, non tengono più niente in magazzino, tutto da ordinare, è uno schifo. Non lo so. Che tappo ti serve? Diffusione? Cos'è? Poveri noi. Giulia. Cioè. Mamma mia. Toccate a ripristinare quello lì, fare tutta la gomma nuovo, pigliaffa. Mi stanno facendo gli occhi, questi occhiali. Ma sono per vedere da lontano? No, sono quelli per leggere. Ah, ho capito. Io ce li avevo, quelli lì mi stavano facendo proprio male agli occhi e alla fine li ho mollati. L'avevo preso in farmacia, anzi in farmacia dall'Utico a Città Mercato, che è Utico Buperella, chi è quello? No, io l'ho preso dove mi sono trovato, li ho provati, forse alla Lidl, non mi ricordo, li ho provati, andavano bene, però diciamo la verità che se li tiri troppo si fanno male. Sono te l'ho pagati all'utticati 25 euro. No, io sono andato alla piazzetta nel Bari, li ho provati quelli da leggere, no, mi ha detto prova questo, ci vedi bene, eh? Però a me queste visite così, giusto a farmi leggere quello che così, in un foglio di carta, ho detto sì, vabbè, ci vedo bene, però cosa ne so se a distanza di tempo che sto leggendo mi fa male l'occhio, cioè, ma però non dovrebbe farti, non dovrebbe, però intanto questo è 25 euro, o 50 se non me ne ricordo, e poi gradualmente li devi cambiare anche. Sì. Boh. No, a me mi andavano bene, poi mi sono seduto sopra e li ho spezzati in due. Erano perfetti, devo andare a farmeli. Li ho spezzati in due, proprio li ho distrutti. Proprio perché ti andavano bene? Eh certo, beh, se non si sarebbero arrutiti, ma scherzi. Ma c'è l'occhiale da sole di marca, comprati due giorni schiacciato nel sedile. Bello, una volta mi prendo, vado a mettere gasolio, non vedevo il coso per digitare il codice IBAN, prendo e appoggio gli occhiali e teggio il cristallo dietro dalla macchina, faccio un investigaggio di PC, ti pensi. Allora, senti a me, te l'avevo già fatta la tua domanda, ho sott'occhio questo Android Discorama, stereo Android, autoradio 2DIN, Bluetooth, USB, MP5, AUX, Wi-Fi, GPS, retrocamera, mola della favola, 89,99, però io non c'è marca, diciamo, come intendo, era giusto un parere. Oti, tu non devi fare gare di impianti audio, a te ti serve una cosa per sentire un po' di musica, quindi secondo me ti conviene prendere quella che ti piace, non guardare il prezzo, non guardare il coso, tu prendi quella che ti piace e che abbia le funzioni che ti servono, poi non guardare, perché se vai a cercare la cosa buona, tipo le radio costano 300-400 euro, ma futti dinni. Non è che la usi tutti i giorni, ti serve per mettere un po' di musica, una chiavetta, una cosa, e prendila, se ti serve quella lì prendila, non devi fare tu gare di perfezione sonora, queste cose. Si sentono bene, funzionano bene, però non puoi pretendere che sia come un Alpine o come un Pioneer, o come, ora ti posso dire, una marca molto blasonata che costano 500-600 euro, 1000 euro, prendila, io ti ripeto, l'ho regalata una, se me l'avessi detto prima te l'avrei data, ti l'ho regalata un amico, la vita, so che la tiene bene, però cioè, chi prima arriva, prima è lì, capito? Quindi te l'avrei anche data. Ancora, metti il coltello nella piaga, no, non è quello, il problema è che mi stavano dicendo che sono difficili a... di nuovo, che sono difficili a configurare col telefonino. Aspetta che devo girare una cosa nel forno. Sì, stavo girando un pezzo di costata di cinghiale, perché sennò si brucia. Non voglio assaggiare, non l'ho mai assaggiata così. Sì. Ti trasmetto col dipolo un attimino. Trasmetto in orizzontale, riguardo i semicubi. Sempre qua? Sì. Vai. Sì, 9,5. 9,20 più. Niente. Sì, va bene. Vabbè, ma lo devi provare nella sua frequenza. E allora io l'avrei parcheggiato. È perché le antenne si mettono per migliorare, non per peggiorare. E io ti stavo ascoltando col dipolo. Per i 10, per i 15, per i 20, per i 40. No, io ti ho detto che ti stavo ascoltando col dipolo. Quindi ero la stessa polarità. Non mi fare queste cose qua a me. Solo che non posso trasmettere perché 10 e 15 lo riceve bene, però non l'ho accordata per trasmettere, capito? Vabbè, allora lì ci può stare. Però, anche se io sono in disaccordo, l'ascolto non è che cambia la trasmissione. Però, se tu sei puntato diversamente da me, allora ci sta. Allora va bene. Perché, sì, ti ripeto, in verticale giustamente spingi di più. La prova tu però così non la puoi fare, la devi fare quando sei puntato verso di me. No, quello poco cambia, capito? Quello poco cambia. Comunque, adesso vediamo se riesco a procurare anche... Ma no, me ne faccio niente, mi sto prendendo... Tanto 40 metri di cavo si procurano, adesso vediamo. Di quello del Paoloni, di quello buono. Antenne VHF, VHF, cioè queste cose qua, non le voglio io, perché mi sembra che c'è anche un dipolo rotativo, come molto più grande di quello che hai fatto tu, senza cariche però, Gavi, io devo mollare perché devo tenere un occhio dentro il forno, un occhio al cane e poi le mani dappertutto, che devo preparare un po' di roba, nel caso se ne hai voglia sentiamo più tardi. No, te lo brucio, non c'è problema. No, mi appanna gli occhiali. Dai, sentiamo più tardi, dai, ciao.